La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa ci puoi trovare dentro, e così ti alzi ogni mattina, stancamente ti trascini verso i tuoi panni e ti prepari per una nuova giornata uguale a tutte le altre. E perché lui e solo lui sarà anche oggi il tuo appiglio, lui e solo lui ciò che ti permetterà. Thank you.